Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. In primo piano. Buongiorno, buon giovedì da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa. Anche oggi inizio da Financial Times perché ne parlavo proprio prima di entrare con Laura Bettini, che poi dopo il GR delle 8 condurrà Ma cos'è quest'estate. Si parlerà anche di social media, in particolare per quello che sta succedendo in Turchia. Ma ho fatto ieri, insomma, verso l'ora di cena, verso le 7:30, c'era in diretta su alcuni canali americani l'audizione di Jeff Bezos, Tim Cook, Mark Zuckerberg e dell'amministratore delegato di Google, Sundar Pichai, di Alphabet, che è la holding che controlla Google, appunto al congresso. Ed era impressionante perché questi quattro, Jeff Bezos in particolare, l'uomo più ricco del mondo, avevano tempi super cronometrati, lo stesso valeva per chi faceva le domande, cioè membri del congresso, massimo 5 minuti a testa, ed erano, infatti Financial Times titola Tech Titans Post Grilled on Capitol Hill, quindi veramente letteralmente più che graticola, proprio sulla griglia, le domande molto dure, molto toste, ma soprattutto che faceva impressione, ed è bellissimo quando si vede questa democrazia vera all'opera, con il vero balance of power, appunto membri del congresso che interrogano in questo modo così senza alcuna cortesia, diciamo, ripeto, l'uomo più ricco del mondo e altri tre tra i più ricchi del mondo insieme fanno 5.000 miliardi di capitalizzazione queste quattro aziende. E il vero balance of power, appunto, il congresso, che è l'espressione diretta in una democrazia parlamentare dei cittadini, ma faceva anche impressione quanto fossero preparati nel fare le loro domande e quanto a lungo si siano preparati per fare queste domande. E purtroppo a me personalmente è venuto in mente quel poco che abbiamo visto dei lavori della commissione parlamentare sulle banche, peraltro importantissima, istituita in fretta e furia sull'onda dello scandalo MPS alla fine dell'ultima legislatura, presidente Casini, quel poco, ripeto, che si era visto, una cosa molto frettolosa, molto si vedeva la scarsa preparazione di chi avrebbe dovuto fare le domande, e anche le domande compiacenti, insomma un confronto, ma al di là del confronto vedere appunto questa audizione è stato molto interessante. Sono le quattro foto degli amministratori legati, sono in prima pagina sui Financial Times di oggi, ma la notizia principale è legata in realtà alla decisione confermata dall'amministrazione Trump di togliere dalla Germania 12.000 soldati americani che erano lì per un accordo con la NATO. Verranno ridistribuiti, circa la metà torneranno negli Stati Uniti, altri verranno ridistribuiti in Europa, alcuni arriveranno anche in Italia. Mi ricordo che l'avevamo mandato a Effetto Mondo l'audio di Trump che diceva Berlino è stata delinquent, che non si può tradurre con delinquente, ma non ha rispettato, anche se naturalmente è un termine forte, non ha rispettato gli accordi. Trump accusa la Germania da molto tempo di non dare abbastanza fondi alla NATO, e quindi ha mantenuto appunto questa promessa di togliere questi soldati dagli Stati Uniti, dalla Germania. L'altra notizia di prima pagina riguarda la Kodak, che naturalmente sapete è stato il nome storico della fotografia, solo che poi quando è arrivata la rivoluzione digitale è stata sull'orlo del fallimento. Ieri ho dovuto leggere due volte per essere sicura di aver letto bene. Le azioni sono arrivate a guadagnare fino al 2.757% in più. Perché? Perché la Kodak si è veramente riconvertita, produrrà, grazie al Defense Production Act, che è una legge in situazioni di emergenza prevede la riconversione con tutti gli aiuti statali necessari per appunto motivi di emergenza, in questo caso l'emergenza sanitaria, produrrà alcuni delle materie dei reagenti necessari ai nuovi vaccini e ai tamponi, e questo ha fatto balzare, ripeto, le azioni ieri del 2757% rispetto a una settimana prima. Ci lasciamo un attimo per un aggiornamento sulla viabilità. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, sono ancora un po' addormentata, c'è un ascoltatore molto combattivo di prima mattina che addirittura parla di mie afasie e tentennamenti e mi suggerisce di non improvvisare. E mi scuso con tutti gli ascoltatori invece gentilissimi che mandano messaggi al 349-238-6666, WhatsApp o SMS, che invece sono molto più cortesi e mi perdonano qualche tentennamento così appunto di prima mattina. A questo ascoltatore che continua a mandare questi messaggi, non è la prima volta, ma perché mi ascolta se gli è così difficile ascoltarmi? Non lo so, misteri della vita. Un approfondimento interessante, poi passiamo al Sole 24 Ore, dalla pagina, dal dorso Companies and Markets di Financial Times, riguarda quello che sta succedendo a Shopify. Shopify ha sorpassato ieri il numero di vendite di eBay. eBay sicuramente se la ricordano quelli che magari hanno più o meno la mia età, che hanno vissuto proprio l'inizio della la nascita appunto di questi colossi che oggi sono colossi non soltanto del web. Amazon, ripeto, il fondatore di Amazon è l'uomo più ricco del mondo, Jeff Bezos, e all'inizio appunto eBay sembrava, era il sito di aste online, ora non è più soltanto di aste, sembrava destinato a grandissime cose, e ora Shopify l'ha superato. Perché vi segnalo questo? Perché tra quello che ha detto ieri Sundar Pichai di Google in questa audizione, rispondendo a una domanda, l'audizione era per scoprire, per cercare di capire se questi quattro giganti della tecnologia hanno in qualche modo distorto la competizione, la libera competizione. E Sundar Pichai ha detto, ma l'ha detto anche Mark Zuckerberg, non vi rendete conto di quanto sia competitivo questo campo? E appunto mi fa impressione, no, vedere che un incumbent come Shopify, che ha pochi anni di vita, ha superato eBay. Quindi sicuramente tante delle mosse che vengono contestate a queste quattro grandi aziende sono sicuramente legate al fatto che in questo settore un'azienda super consolidata come eBay può poi essere scalzata da un rivale che ha sfruttato meglio la tecnologia. Ma vi dicevo, arriviamo al Sole 24 Ore, una apertura su quello che riguarda l'ANAS, 1000 giorni per il contratto dell'ANAS. Il decreto non abbrevia l'iter con cui l'ente finanzia le proprie opere. Sapete che si era parlato di ANAS anche come nuovo gestore della rete autostradale. E adesso c'è il tema dei lavori e degli appalti per questi lavori. L'ANCE, l'Associazione Nazionale dei Costruttori, dice 94 miliardi di lavori con i nuovi appalti di emergenza senza gara. Poi naturalmente il riferimento alla notizia, ma che avete sentito anche nei GR, del ok dopo quello del giorno prima del Senato, l'ok della Camera allo scostamento di bilancio, cioè l'ok perché noi si stipulino altri 25 miliardi di debito. E poi c'è questa, veramente è proprio una cosa un po' all'italiana. Sapete quanto si discute di MES, il Fondo Europeo Salva Stati, i cui soldi, i cui miliardi sarebbero disponibili subito se l'Italia accettasse di prenderli, con l'unico vincolo di usarli per l'emergenza sanitaria. E il Movimento 5 Stelle continua a dirsi contrario, ma ieri con un nome diverso è stato inserito questo, proprio con un espediente, potremmo dire, lessicale, perché se il MES diventa un generico aiuti europei, e allora sì a questi generici aiuti europei, ma in realtà è appunto è il MES, perché come sappiamo per i miliardi del Recovery Fund serve prima il Recovery Plan, che deve essere presentato entro ottobre alla Commissione Europea, che comunque i soldi, se approverà questo Recovery Plan messo a punto dall'Italia, arriveranno nella primavera del 2021. Un aggiornamento sul cosiddetto super bonus al 110%, il MISE, il Ministero per lo Sviluppo Economico, definisce i lavori ammessi e il tetto ai costi. La fotonotizia però è di questo schermo, perché l'audizione di ieri è avvenuta in modalità telematica, quindi c'erano le immagini del congresso, vedevano appunto i membri del congresso distanziati e con la mascherina se non dovevano parlare, e i quattro amministratori delegati, Bezos di Amazon, Zuckerberg di Facebook, Pichai di Google e Cook di Apple, davanti all'antitrust americana, collegati però da remoto. Con il Sole 24 Ore, ieri abbiamo dato l'anticipazione, ma oggi è il giorno, potete trovare in edicola questo libro, che poi resterà in edicola ma andrà anche in libreria e sarà anche disponibile come ebook, Il potere della gratitudine di Andrea Vitali e Nicoletta Carbone, che è proprio il frutto un po' di queste chiacchierate tra lo scrittore e la nostra Nicoletta Carbone di Obiettivo Salute in questi mesi di pandemia. Il Corriere della Sera sceglie di titolare su quello che è successo. Ieri abbiamo detto, alla fine è stato dato l'ok anche del Senato allo scostamento di bilancio, scusate, anche della Camera, ma con interventi molto duri. Credo che abbiate visto, perché un po' è stata mandata dai TG, un po' è soprattutto circolata in rete, le parole di Giorgia Meloni, durissime, le hanno quasi, tra l'altro era veramente così presa dalla sua foga, che le è quasi trasfigurata anche nel viso, per questo dico che poi fin troppo facile, appunto la rete ha approfittato di questo e sono girate queste immagini effettivamente dove appunto il viso esprimeva tutta la veemenza delle sue parole. E tra l'altro c'è stato anche questo episodio in cui lei ha detto, ha accusato il governo Conte di avere un furore immigrazionista e pare qualcuno, lo stesso Conte, ha abbozzato una sorta di sorriso che sicuramente voleva indicare, sicuramente che per come la posso vedere io poteva indicare insomma il fatto che questa era sicuramente una definizione un po' forte e Giorgia Meloni ha risposto non c'è niente da ridere. Questo è quello che giustifica, vi dico questo perché giustifica appunto il titolo Alta tensione alle Camere. C'è anche tutta la questione tristissima, proprio di bassa politica, ne abbiamo parlato ieri, delle nomine delle commissioni parlamentari, perché quelle in vigore in questo momento erano state decise dal precedente governo e quindi bisognava rinnovarle, ma c'è stato tutto un mercanteggiamento dietro le quinte nelle settimane scorse e poi non è andata come si voleva, poi entreremo un po' nel dettaglio. Molto bella la foto impressionante del pellegrinaggio alla Mecca perché il Corriere della Sera mette a pagina 3, la foto è stata messa da molti perché si vede appunto il distanziamento, il Corriere della Sera ha scelto di mettere quella di scattata ieri con una scattata il 13 agosto del 2019 e naturalmente sì che si vede la differenza, il super affollamento di un anno fa e il distanziamento di questo pellegrinaggio ai tempi della pandemia. Il Messaggero ha un'apertura diversa perché ha un'intervista esclusiva al ministro della funzione pubblica Fabiana Dadone e il virgolettato per titolare l'intervista è «Porto i talenti del Sud nella pubblica amministrazione». Sapete che uno dei temi, soprattutto quando si parla di semplificazione della burocrazia e si intende soprattutto quella che ha a che fare con la pubblica amministrazione, si sottolinea sempre anche come l'età media di chi lavora nella pubblica amministrazione sia abbastanza alta e da qui anche l'idea di nuove assunzioni, anche se ci si scontra con il cosiddetto blocco del turnover, cioè, viene definito proprio così, anche se poi forse si potrebbe anche trovare una parola italiana per dirlo, in ogni caso si intende appunto il turnover, cioè il ricambio, si potrebbe dire semplicemente il ricambio dei lavoratori all'interno dell'amministrazione e quindi il blocco delle assunzioni sostanzialmente, pronto un piano, dice la ministra Dadone, per assumere ingegneri e informatici. La foto è dedicata a una delle partite di ieri, ovviamente in questo caso la partita della Lazio con questa ennesima bella performance di Ciro Immobile Roma, notte che vale l'Europa. Come vi avevo segnalato ieri, ma anche l'altro ieri, il grande spazio che Il Messaggero dedica all'inchiesta sul governatore Fontana. Oggi in prima pagina: Fontana, la tesi dei PM, accordo sull'appalto, i camici erano pronti. Avete sentito questo aggiornamento anche nel GR. La Repubblica ha due titoli. Quello che è subito sotto la testata riguarda appunto l'audizione ai Big Tech, il congresso ai Big Tech, regole anche per voi. E poi però subito sotto il caso Lombardia, tutte le bugie di Fontana, poi in realtà nel sommario viene messo tutto insieme, il conto svizzero, il bonifico, i 600.000 euro mancanti, una onlus, il cognato voleva rivenderci camici, Conte, e qui appunto si cambia argomento, vara lo scostamento di bilancio da 25 miliardi, l'opposizione si astiene, prima apertura al MES, maggioranza battuta al Senato, ed ecco qui la questione delle commissioni, due commissioni vanno alla Lega. La Stampa: il Nord chiude le porte ai migranti, i governatori no ai rifugiati, scontro sullo stato di emergenza e commissioni, Bonaccini sui fondi, sentite le regioni. E poi la questione della Open Arms, perché alle 9:30 in Parlamento si vota per l'autorizzazione a mandare a processo Matteo Salvini per la vicenda appunto della Open Arms. Siccome Italia Viva, che in commissione aveva votato contro, quindi tra virgolette salvando Salvini, adesso invece ieri Renzi ha annunciato che i suoi parlamentari voteranno per il processo a Salvini, e quindi Salvini ha risposto: non avevo mai sperato in Renzi, è un venditore di tappeti. Vi segnalo dalla prima pagina della Stampa anche l'intervento di Giancarlo Caselli sulla ferita del carcere di Torino, sapete, con la condanna per abuso di potere per quello che succedeva in quella caserma. E poi vi segnalo, perché è bellissimo, il buongiorno di Mattia Feltri, la logica del formicaio. Ve lo leggo prima della pausa, dove sentiremo gli aggiornamenti sul meteo. Quando Andrea Bocelli ha postato il video di scuse per le sue tesi minimizzanti sul Covid, ampliate e amplificate dalla smania della quotidiana battuta di caccia, probabilmente poteva risparmiarselo. Le brigate del bene si erano scocciate di lui e già tallonavano il nuovo farabutto da impalare sulla piazza di internet, Ernesto Galli della Loggia, autore del suo articolo non più felice sui giovinastri di periferia che la sera dilagano nei quartieri centrali a devastare il lusso a loro negato. Tesi piuttosto spericolata, diciamo così, e puntualmente sanzionata con un pestaggio collettivo e virtuale, e a sera, mentre scrivo, ancora vivace. È meraviglioso come sia tutto prevedibile, anzi previsto, nelle modalità e nella serialità. Sono andato a cercare fra le pagine del mio profeta Elia Scanetti, il capitolo era lì ad aspettarmi, masse aizzate. Ai tempi di Canetti le basse battevano il selciato, ora le tastiere. Il sangue non scorre, ma la tecnica non muta. Con determinazione, senza confronto, scrive Canetti, la massa individua la vittima, persegue lo scopo ed è impossibile distoglierla. La vittima potrà dire fare quel che vuole, ma gli servirà a niente. Ognuno gli sarà addosso, tutti vogliono colpire eccitati dal partecipare all'atto di somma giustizia, dall'assenza di pericolo, perché la superiorità della massa è schiacciante. La vittima, dice Canetti, è stata messa a disposizione per essere soppressa. Lo slancio e la sicurezza della massa è terrificante. È l'eccitazione dei ciechi, che sono più ciechi nell'istante in cui credono di vedere. Più di della loggia è stupefacente il formicaio che non sa di essere formicaio. E noi ci lasciamo un attimo. In primo piano. Ancora buongiorno, buon giovedì da Giulia Crivelli, grazie a tutti gli ascoltatori perché sono sintonizzati e stanno ascoltando, e a chi manda messaggi al 349-238-6666, WhatsApp, SMS, e scusate ma perché ne sono arrivati due stupendi. Momento leggerezza, c'è un ascoltatore che mi dice: ah, ti piace la Mecca? Mi sa che prima o poi ci andrai col burka. E qui faccio una confessione, che io, a me piace talmente tanto la Mecca e il burka, che ho una tentazione che devo naturalmente sopprimere. Quando vedo una donna velata o col burka, di togliere quel velo, cioè di avvicinarmi e toglierle il velo. Finora sono riuscita a trattenermi, non l'ho mai fatta, ma questo per dire quanto mi piace la Mecca e il burka. E invece un altro ascoltatore che, nel mio tentativo, purtroppo con le parole non possono sostituire le immagini, e quindi cercavo di spiegare perché quel titolo Alta tensione alle camere, che è anche legato all'intervento ieri durissimo di Giorgia Meloni, di cui però le foto foto non ci sono sui giornali, per una sorta, credo, di pudore, anche perché alcune fotogrammi erano veramente impressionanti, e dice: ah, abbiamo capito, sei destrorsa. E vabbè. Ma detto questo, un argomento che comunque è serio, perché anche il calcio è una grande industria. Ieri abbiamo parlato di questa strana cosa che è successa due giorni fa, con l'ombra di Messi proiettata sul Duomo dalla TV Suning, che è di proprietà del proprietario dell'Inter. Messi che aveva come una specie di maglia che sembrava quasi la maglia dell'Inter, come a dire: stiamo lavorando per questo trasferimento. Oggi la Gazzetta dello Sport titola: 260 milioni è l'ingaggio lordo per 4 anni dell'operazione Messi Inter. Il sogno dei tifosi nerazzurri continua e ha un'ipotesi di costo, ma appunto un'ipotesi. Avvenire, più luce in mare, perché questo titolo? Perché ieri è stato annunciato quella che Avvenire definisce così, e vedremo che ci sono anche altre definizioni, mossa della società civile per i salvataggi nel Mediterraneo. Presto la nave Rescue, che se si legge in inglese naturalmente vuol dire Rescue, cioè salvataggio, il Senato decide sul processo a Salvini per sequestro di persona su Open Arms. In prima pagina anche la decisione, che riguarda tutti noi, di questo sì a un extra deficit di 25 miliardi, e sul MES è mini apertura. L'Avvenire è l'unico quotidiano che mette in prima pagina l'anniversario. Sì, manca qualche giorno, forse nei prossimi giorni vedremo altri approfondimenti, ma appunto è il primo giornale che vedo. Bologna, 40 anni di ombre sulla strage, la strage del 2 agosto 1980. Il giornale Scafisti Chic, ecco perché vi dicevo, appunto, da una parte la società civile, dall'altra gli scafisti chic. Perché? Perché è nata una nuova ONG, è fondata dall'ex magistrato Gherardo Colombo, con Spataro, la figlia di Gino Strada e Gad Lerner. In prima pagina anche questa notizia del giornale, che trovate anche su altri quotidiani, non con questa enfasi, si è scoperto che l'ultima follia dell'assistenzialismo, Pietro Maso, che chi ha qualche anno lo ricorderà sicuramente, nel 1991 uccise i genitori, poi andò a ballare e poi dichiarò, fu molto facile scoprirlo e arrestarlo, che voleva appunto l'eredità dei genitori per continuare a fare questa vita di discoteca. L'ultima follia dell'assistenzialismo, Maso al reddito di cittadinanza. Ci sono delle regole naturalmente per ottenere il reddito di cittadinanza, e nel caso di Maso non ne aveva diritto perché è stato interdetto ai pubblici uffici. Comunque, trovate poi la cronaca di questa pagina 14. Il Fatto Quotidiano titola sulla questione delle commissioni, che appunto io ho definito tristissima e ribadisco. Perché siamo in un'emergenza economica e sociale che segue a quella sanitaria, che peraltro non è finita, e in Parlamento, questo è quello che sappiamo da ieri con gli esiti di queste votazioni per il rinnovo delle commissioni parlamentari, ma è chiaro che sono settimane e settimane che tantissimi parlamentari della Repubblica di questo si stanno occupando, della spartizione delle presidenze delle commissioni. Vietnam sulle commissioni, tentato suicidio giallo-rosa, le trame dei partiti lasciano due presidenze alla Lega in Senato. Tra gli sconfitti c'è Piero Grasso, ex presidente del Senato, nonché magistrato antimafia, che doveva andare a presiedere, lui appartiene a LeU, il partito del ministro Speranza, Liberi Uguali. L'idea era che presiedesse la commissione giustizia, direi che più competente di così nella rosa di nomi presentati era difficile immaginare, e si è riusciti a non farlo eleggere per appunto le trame dei partiti. L'editoriale quotidiano di Marco Travaglio, perché in prima pagina oggi non vedo l'aggiornamento sulla questione dell'inchiesta sul governatore Fontana, però a questo è dedicato tutto l'editoriale di Marco Travaglio, intitolato leggo testualmente, il proto Cazzaro. E Marco Travaglio, che sicuramente fa un lavoro certosino di archiviazione di tutte le dichiarazioni che fanno i vari politici di ogni colore, e qui elenca tutte le contraddizioni appunto di Fontana. La verità: Conte è un pericolo, due punti, superpoteri, e subito attacco all'opposizione. Poi si infuria anche la Casellati. Ecco, ieri il presidente del Senato Casellati, che intervenendo alla cerimonia, mi sembra che si chiama la cerimonia del ventaglio, dove all'inizio delle ferie, che quest'anno sono un po' slittate, saluta i cronisti parlamentari e è tornata a ribadire che non è così che si procede: troppi DPCM, decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, troppi pochi passaggi parlamentari. Quindi effettivamente sono state proprio le sue parole. Ora, sicuramente sapete che uno dei miei idoli del mondo animale è l'orso M49, che noi abbiamo ribattezzato Papillon, che è scappato per la seconda volta dal recinto in cui era stato recluso in Trentino. Ma mi è ancora più simpatico, e chissà cosa direbbe di questo articolo di Mario Giordano, perché Mario Giordano usa l'orso M49 per attaccare il governo. Dice: tifano per l'orso libero, ma ci vogliono tutti chiusi in casa. Da Costa, ministro dell'ambiente, agli ambientalisti, naturalmente il tema è quello, ancora una volta, della proroga dello stato di emergenza, che naturalmente sapete è stata accolta sia al Senato il giorno prima, ma ieri alla Camera, da queste fortissime critiche da parte dell'opposizione, e in particolare abbiamo citato quelle della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Libero, la Sicilia diventa regione africana. Arrivati 603 migranti col virus, lo sfogo del presidente dell'isola Musumeci, situazione fuori controllo, siamo terra di sbarchi. Al governo però litigano e oggi processano Salvini. La foto è dedicata a Filippo Lamantia, lo chef stellato, che in un'intervista poi che trovate di Tommaso Farina, pagina 12, sottolinea ancora una volta quanto sia in crisi e quanto sia colpito dalla pandemia il settore della ristorazione. Tanti ristoranti in difficoltà, il 30% degli chef rischia il posto. Dalla prima pagina vi segnalo anche un divertente articolo di Renato Farina: chi parla inglese dimentica l'italiano, l'abuso di modi di dire stranieri. Sono d'accordo sul tema dell'abuso di questi termini. Ho parlato nei giorni scorsi dell'uso totalmente a sproposito della parola governance per capire chi dovrà decidere come fare il recovery plan e poi come usare i soldi, eventualmente come usare i soldi del recovery fund. Anche turnover, che alcuni appunto ascoltatori via WhatsApp suggeriscono si potrebbe tradurre con avvicendamento, e tantissime altre parole. Tra l'altro il rischio poi con turnover, ma anche con recovery fund, che ho sentito pronunciare fond, found, e in altri mille modi, il rischio è di abusare di termini inglesi e poi di pronunciarli pure male. Quindi scegliete una parola italiana e riusciremo tutti a pronunciarla meglio. Detto questo, ci sono invece alcune situazioni in cui l'inglese non ha traduzione diretta in italiano, o a volte per tradurre una parola inglese ce ne vogliono tre o quattro in italiano, e allora tanto vale appunto usare quella inglese. Il manifesto, buio fitto, perché questo titolo, fitto scritto con la F maiuscola, perché mancano due mesi al voto per rinnovare il Consiglio regionale in Puglia ed è saltata la locale legge elettorale. L'opposizione della destra, che candida appunto Fitto come governatore, sostiene il candidato e affossa la doppia preferenza di genere. Emiliano sconfitto fa mea culpa, la palla passa a Conte. Veti della maggioranza, quindi in questo momento la maggioranza sostenuta da Emiliano, che si ricandida alla presidenza della Regione Puglia, contro l'epidemiologo Lopalco, che tra l'altro è stato uno dei migliori a detta di tutti, è quello che ha lavorato meglio per la gestione dell'emergenza sanitaria in Puglia, dove si è riusciti a contenere contagi e decessi, e comunque il sistema sanitario ha tenuto, benché non fosse come purtroppo in molte regioni del sud, come testimoniano tutte le migrazioni di persone malate verso le strutture del nord nord il sistema pugliese non è certo tra i migliori, il sistema sanitario, eppure ha tenuto anche grazie allo palco, che però adesso, siccome è uno che dice le cose senza badare alle conseguenze, diciamo, politiche, non ha diplomazia politica perché non è un politico, e però appunto adesso è sotto attacco. Sulla prima pagina del manifesto anche l'approvazione dello scostamento di bilancio. Vi dicevo dell'intervento di Giorgia Meloni, ecco, il Foglio non pubblica la foto, però c'è una vignetta di Macox che è una caricatura e appunto vi fa un po' capire quanto sia stato violento anche nelle espressioni, violento, quanto sia stato veemente anche nelle corrispondenti espressioni del viso l'intervento di Giorgia Meloni ieri in aula. L'editoriale è del fondatore del Foglio, Giuliano Ferrara, e si intitola «Il guaio di Fontana è la maschera, la sua, perché un bugiardo che non sa dire le bugie per Salvini si rivelerebbe un colpo fatale e definitivo». È un po' anche la questione trattata in modo diverso, ma la sostanza non è poi così diversa, da Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano, cioè le contraddizioni, o meglio anche le bugie, di Attilio Fontana, che ha detto una serie di cose poi smentite da documenti, da fatti, e nel caso dei camici extra l'amministratore legato della Dama, Andrea Dini, che è sposato con la sorella di Fontana, Roberta Fontana, voleva rivendere, che adesso sono diventati corpo del reato, come avete sentito nel reportage di Raffaella Calandra nel GR, e quella è stata proprio una bugia. Poi adesso sono saltati fuori anche dei messaggi WhatsApp, quindi insomma continuano a uscire queste contraddizioni. Noi ci lasciamo però un attimo per un aggiornamento, il secondo aggiornamento sulla viabilità. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e all'ascoltatore che chiede nessuna notizia sull'avvio della costruzione del reattore a fusione in Francia, al quale partecipano anche aziende italiane. In realtà ieri su Repubblica c'era una pagina intera, è sicuramente una notizia molto interessante. Oggi sui giornali però nessuno la riprende, e quindi per questo non ne ho parlato, ma appunto ieri c'era una pagina intera su Repubblica. Andiamo alle pagine interne del Sole 24 Ore. Vi dicevo l'approfondimento sull'ANAS e sulla situazione in generale della rete autostradale. Pagina 11, un lungo articolo di Raul De Forcade. Liguria, il MIT presenta ad Aspi il conto da 1 miliardo al mese. Il MIT, il Ministero delle Infrastrutture, la richiesta delle imprese al Ministero verrà girata al concessionario della rete, cioè Aspi. Dal Sole 24 Ore vi segnalo anche l'aggiornamento su la Brembo e l'investimento che sta facendo in Pirelli. Brembo raggiunge il 5% di Pirelli, investimento di lungo periodo, e a pagina 15 del Sole 24 Ore l'articolo di Matteo Meneghello che riporta appunto le parole dell'amministratore delegato, del vicepresidente esecutivo del gruppo Brembo, Matteo Tiraboschi. Meno male che c'è Gianni Dragoni a darci qualche aggiornamento, anche se sempre un po' da mani sul volante, su Alitalia, pagina 19, Alitalia, Newco e nomine nel limbo. Ecco, tutti impegnati ai traffici per le trattative, chiamiamole così, se no magari qualcuno si offende, per la scelta dei presidenti di commissione, e per esempio la questione Alitalia, che ricordiamo nel decreto rilancio ha avuto poco meno di 10 miliardi, e qui siamo alle nomine nel limbo e alla Newco nel limbo. Atteso il confronto con l'Unione Europea sul piano, tensione tra Leo Grandizzeni e Lazzarini, cioè i commissari. L'inchiesta su Fontana, sul Corriere della Sera c'è un lungo articolo di Luigi Ferrarella che ha seguito questa inchiesta fin dall'inizio. Pagina 6, IPM sul caso Camici in regione, ecco la chat, non fu donazione. E poi un approfondimento di Tommaso Labate alla pagina 18 del Corriere della Sera. La notizia c'era già ieri, ma adesso c'è un approfondimento, perché l'ex ministro Elsa Fornero, c'è anche una foto di quando il 4 dicembre del 2011, quando era ministro del lavoro, annunciando quelli che erano sacrifici pesanti per tantissime persone, scoppiò anche in lacrime e fu stigmatizzata per quello. Tipicamente, insomma, quando una donna piange sembra sempre un segno di debolezza, e poi se invece un uomo piange, come è capitato ai carabinieri, ex carabinieri interrogati per lo scandalo della caserma di Piacenza, viene sottolineato che piangono, e quindi anche lì è certo che è un segno di debolezza, ma comunque, insomma, questa cosa delle lacrime, ci sono libri interi dedicati alle lacrime. Tra l'altro, l'essere umano è uno dei pochissimi animali, qualcuno dice che anche gli elefanti per esempio sono in grado di piangere, però è proprio un segno di umanità, quindi non si capisce perché debbano sempre essere così negativamente stigmatizzate. Detto questo, in questo colloquio con Tommaso Labate, Elsa Fornero spiega perché ha deciso di fare la giurata in un quiz televisivo, uno show condotto da Costantino della Gherardesca, e lei dice: dove mi invitano vado, ricevo anche insulti ma non li temo, cercherò di spiegare la finanza in TV. Dal Messaggero, che anche oggi ha un lungo approfondimento sulla inchiesta su Fontana, pagine 6 e 7, l'ipotesi dei PM intesa prima del contratto, i camici erano già pronti. E poi Mario Aiello, che già ieri di questo parlava sulla prima pagina del Messaggero, firma un articolo a pagina 7: con il flop della sanità lombarda si schianta il sogno dell'autonomia. È un'interpretazione, perché poi anche l'idea di flop è relativa. Sicuramente in Lombardia, e lo dico da lombarda e da figlia di medico ospedaliero, abbiamo avuto un problema di assistenza sul territorio per una serie di decisioni prese sul ruolo dei cosiddetti medici di famiglia. Parlare di flop, visto che comunque da questa ondata, questo tsunami di contagi, il primo focolaio, lo ricorderete, a Codogno, tra l'altro una piccola città del Lodigiano governata da un leghista che ieri si è indignato per le parole dei cosiddetti negazionisti. Insomma, la sanità lombarda alla fine ha retto a questo tsunami. Certo, abbiamo pagato tutti un prezzo altissimo in termini di decessi, e con tutto quello che è successo soprattutto nelle residenze per anziani, dove stavano le persone più deboli dal punto di vista fisico della salute, cioè gli anziani. Però parlare appunto di flop non sottoscrivo. L'approfondimento sulla questione Open Arms, pagina 9 del Messaggero, Salvini verso il processo, e lui ha, tra le cose che ha detto, oltre aver definito Matteo Renzi un venditore di tappeti, ha anche detto: ci porto anche il Premier. E continua, secondo il Messaggero, ma come abbiamo visto invece per altri giornali non è così, spera nell'aiuto renziano. Una storia, cambiamo un po' argomento perché la politica veramente è, come dico, triste, scusatemi, ma questa vicenda delle commissioni mi ha veramente colpito tantissimo. Ma pagina 15 del Messaggero, Francesco Malfetano ci racconta i segreti svelati dal caldo. Sapete che in Siberia da un paio d'anni in realtà ci sono queste temperature record, quindi si sciolgono i ghiacci, si scioglie lo strato che ricopre il terreno. Siberia spunta il mammut. Le alte temperature sciolgono i ghiacci e portano alla luce sempre più esemplari, puledri e cani preistorici in condizioni perfette. Vi segnalo da Repubblica due interviste, una di Alessandra Zaniti a Oscar Camps, fondatore di questa ONG Open Arms, che è anche un imprenditore marittimo e un attivista catalano, e l'altra di Liana Milella a Giulia Bongiorno, ex ministro della pubblica amministrazione in quota Lega, anche se credo non sia mai stata iscritta alla Lega, che dice: fece il suo dovere Salvini e non decise da solo, il Senato lo deve assolvere, mentre Oscar Camps, giusto che paghi, ma dopo di lui nulla è cambiato. Questo è il grande tema dei due decreti sicurezza che ormai un anno fa cadeva il governo giallo, cosiddetto giallo-verde, adesso siamo in questo governo giallo-rosso, e quei decreti sicurezza del ministro Salvini non sono mai stati cambiati, anche se fin dall'inizio il PD in particolare aveva annunciato di volerli cambiare. Questa è una storia incredibile, pagina 12, incredibile perché io ho vissuto, cerco di spiegare per questo, non perché la mia biografia sia particolarmente interessante, io ho vissuto in totale quasi 3 anni negli Stati Uniti e non posso assolutamente dire, per questo ho usato l'aggettivo incredibile, di capire certe cose che succedono negli Stati Uniti. E questa è la storia della dottoressa Stella Emanuel, 55 anni, pediatra a Houston in Texas. La trovate a pagina 12 della Repubblica. È famosa grazie a un video che poi è stato condiviso da Donald Trump su Twitter, in cui ha detto, per esempio, ripeto, pediatra di Houston, quindi laureata in medicina con una specializzazione in pediatria, in questo virus ha detto, ma seriamente, non l'ha detto come paradosso, che il virus è portato dal diavolo e che si può curare con l'idrossiclorochina. Intanto negli Stati Uniti c'è un nuovo record di contagi e di morti, si è superata quota 150.000. La dottoressa è convinta, per esempio, anche che le malattie sessuali dipendono dagli accoppiamenti. Ripeto, non sto scherzando, lo ha detto veramente e probabilmente lo pensa, ne è convinta. Dipendono dagli accoppiamenti nei sogni con demoni e streghe. Lo trovate sulla sua pagina Facebook. Poi c'è un'intervista a Alberto Zangrillo, che è prorettore dell'Università Vita Salute di San Raffaele e anche primario del reparto di rianimazione dell'ospedale milanese. Gli è stato detto più volte che è negazionista, perché in maggio ha detto che da clinico, dall'osservatorio del suo ospedale, ripeto, di terapia intensiva, non di ortopedia, quindi ha avuto a che fare con l'emergenza Covid in prima persona, ha detto che dal punto di vista clinico il virus era molto indebolito. Ha usato la parola morto, ha detto poi che forse ha esagerato, ma continua a sostenere che appunto la malattia è cambiata. Il virus esiste, ma la malattia è cambiata perché abbiamo imparato a riconoscerla, perché abbiamo imparato a curarla meglio e tante altre argomentazioni da tecnico. L'intervista di Alessandra Corica la trovate a pagina 12 della Repubblica. Molto interessante, sempre dalla Repubblica, una intervista di Alessa Gaglione a James Bradburn, che è il sovrintendente della Pinacoteca di Brera dal luglio 2015. E sapete, si discute molto di come cercare di promuovere i musei. C'è stato tutto l'episodio del servizio per Vogue Hong Kong, scattato da Chiara Ferragni agli Uffizi, poi ripostato su tutti i suoi social, che ha portato a un aumento dei visitatori. Bradburn dice: chiudiamo la caccia al turismo dei record. La sintesi è: ci sono luoghi come la Pinacoteca di Brera, dove non si può semplicemente guardare al numero di ingressi, ma aumentarli all'infinito, tra l'altro poi con l'immediata conseguenza di code chilometriche di fronte alla Pinacoteca di Brera, che forse rendono comunque l'esperienza della visita al museo meno piacevole. Un punto di vista interessante. Purtroppo abbiamo messo da parte tantissime altre cose, ma non c'è più tempo, quindi vi do appuntamento a domani. Ancora un grazie a Carmelo Lauricella in regia e ancora un buon giovedì da Giulia Crivelli. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.